Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona domenica. Ebbene, oggi andremo in viaggio, faremo un lunghissimo viaggio. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Senza per questo. Ecco, allora salite in macchina, prendete un taccuino, una penna e cominciate a scrivere, perché vi daremo oggi una serie di indirizzi, di luoghi molto particolari, molti dei quali poco conosciuti. Ebbene, il mio Virgilio, in questo viaggio che partirà da Rimini, poi salirà sulla Valle del Marecchia, del Conca e nel Montefeltro, si chiama Fausto Fratti ed è il patron di un straordinario ristorante in quel di Torriana, perché parleremo ovviamente anche di Torriana. E allora buongiorno innanzitutto, caro Fausto. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Allora partiamo da Rimini. Allora, un turista arriva in macchina a Rimini, o anche in treno o anche in aereo, scende e cosa può vedere a Rimini subito? Beh, al contrario di quello che il turista può pensare arrivando a Rimini, che sia solo mare, si sbaglia. Oggi per fortuna la città è in fermento come mai negli ultimi. Io ho 60 anni, quindi conosco Rimini per averci lavorato, eccetera. Non ho mai visto la città così viva e dinamica come oggi, piena di iniziative. Si stanno aprendo cantieri, per fortuna si renderà pedonabile uno dei monumenti più belli di Rimini, non solo. Ecco, a proposito di monumenti, cioè Rimini, tutti pensano semplicemente che sia la città degli anni 60, quella degli ombrelloni, ma ha una storia incredibile Rimini. Esatto, Rimini è romana come città, ci sono delle cose bellissime da vedere. Ti stavo dicendo che grazie a questa iniziativa dell'amministrazione, non sto facendo uno spot elettorale, si aprirà ai pedoni, quindi si toglierà il traffico da un qualcosa di veramente storico, il ponte di Tiberio. Non è crollato nemmeno sotto i bombardamenti degli alleati, nemmeno i tedeschi in ritirata dalla linea gotica sono riusciti a farlo saltare. E quindi è uno spazio che il cittadino, il turista, se ne andrà a riappropriare come lo era probabilmente. Come fecero i guidi Malatesta. Esatto, esatto. Ecco, ma uno arrivi a Rimini, immediatamente si pensa alla Romagna, si pensa subito alla Piadina. Ecco, mi dai un indirizzo, dai ai nostri radioascoltatori un indirizzo della Piadina, Rimini o dintorni anche. Beh, Rimini e dintorni, Piadina, Nude Crude, Casina del Bosco, Verucchio, visto che parlavi dei Malatesta, una piccola chicca dove la si può consumare direttamente, oltre che da asporto. Il nome non è splendido, Piada Style, in piazza Malatesta nel centro di Verucchio. Piada Style, Piada, ecco, Style. Qui questa contaminazione però è Piada vera. Ecco, e poi vabbè, Piada Style, magari cosa gli mettiamo? Gli mettiamo lo squacquerone con un po' di rucola, anche se la rucola è fuori moda, ma secondo me con lo squacquerone la piadina va sempre rende, bene. Rende, la piada e squacquerone rende, ma anche direi cassoni con tonno e cipolla, no? Il cassone, per intenderci, è una piada farcita, è chiusa su se stessa da cruda, è cotta sul testo, è una vera leccornia, diciamo. E io voglio ricordare, a proposito di testo, che molti sono abituati a vedere questi testi ancora, cioè in testi dove si cuoce la piadina in alluminio, ma a Montetiffi c'è un artigiano che fa ancora fa il testo in terracotta. Mi viene da ridere, perché Davide mi chiama a Milano a raccontare queste storie e lui ne sa più di me, perché non so se lo sapete, è romagnolo, quindi queste cose le sa meglio di me. Pierino di Montetiffi, famoso tegliaio. Oggi ci sono degli eredi. Onestamente mi sfugge il nome, però la produzione sta andando avanti come quella di una volta, quindi le mani, si usano le mani, terra, quindi argilla, e mani, e fuoco. E chi la porta avanti è un ex bancario che ha mollato tutto pur di continuare la tradizione. Io il nome non me lo ricordo, però devo dire che i vecchi mestieri io devo salutarlo. C'è qualcuno che li sta riprendendo, poi arriveremo anche a questo per altri aspetti. Bene, continuiamo questo viaggio. Allora, Rimini, siamo scesi, abbiamo preso Piadina e Squacquerone con la rucola, avete sentito gli indirizzi, li avrete segnati, ma a Rimini possiamo anche andare magari a pranzo o a cena in qualche posto che ne vale la pena. Certo, certo, direttamente in spiaggia, direi. Bene. No? Con i piedi a bagno nell'acqua, a Miramare, un altro posto che tu conosci benissimo, ristorante Guido. Beh, ottimo. Osteria del Mare. Ottimo, perché si mangia sulla veranda, proprio sulla spiaggia, è vero. Bella cucina, bella professionalità in sala, molto bravi, sì. E devo dire che c'è un menù un po' particolare, perché non è distinto tra primo, secondo, dolce, eccetera, ma è molto variegato, quindi c'è una, diciamo, una distruzione dell'ordine classico. Ma ora riprendiamo l'auto, bene, a Rimini poi ci sono tante altre cose. Chi va di sera ovviamente ci sono le discoteche ed è famoso per questo, ma possiamo anche cominciare a rincamminarci e ora facciamo rotta su Sant'Arcangelo di Romagna. Ecco, Sant'Arcangelo di Romagna è un posto che sicuramente dal punto di vista culturale è importante, c'è stato appunto il teatro per tanti anni, il teatro di strada, è un posto che ha tanti ricordi di un personaggio come il nostro Tonino Guerra, di cui poi parleremo approfonditamente. Però Sant'Arcangelo è anche un posto piacevole da vedere. Sant'Arcangelo è uno dei pochi posti in zona che vive di luce, di una luce propria. C'è sempre gente, c'è sempre movimento, c'è una movida serale che fa invidia ai grandi centri cittadini. Si possono trovare localini tipo pub dove bere fra le cose più sfiziose, a posti per mangiare una piada e via, a una tagliatella profumata di un altro tuo amico, Gisellini. Bene, allora arriviamo ai ricordi. Non ricordi, perché Sant'Arcangelo è anche importante per la Sangiovese. La Sangiovese, che io, ecco, qui ricordo un aneddoto mio personale, che ancora prima che nascesse Tonino Guerra e il proprietario della Sangiovese, che è un noto editore che si chiama Maggioli, mi portarono a vedere questo locale e mi dissero: qui nascerà un posto molto importante, un'osteria romagnola. È vero, in quell'occasione mi portarono a mangiare da Zaghini, il re della tagliatella, dove io, se vado, mangio tre piatti di tagliatelle con ragù di carne con i piselli. Ma Sant'Arcangelo è anche, hai ragione, è bella perché è radiosa, ci si sta volentieri. Vero. Non so quale sia il segreto, però c'è un'alchimia tutta particolare per Sant'Arcangelo, è una cittadina in continuo fermento e movimento. Oggi probabilmente il dottor Maggioli Maglio non ti porterebbe più a mangiare, ti porterebbe giustamente alla sua Sangiovese, ma gli va dato merito di una cosa: sta facendo degli investimenti quest'uomo, non so se posso dirlo, certo, da uomo coraggioso qual è, proprio nel comune dove io vivo e lavoro, e mi sono sempre ripromesso di portartelo a vedere, e lì anche ci si potrebbe, meriterebbe una visita, dove ha impiantato 10 ettari di vigneto splendido, da ospitalità in delle stanze bellissime, si chiama La Tenuta Saiano, è un piccolo borgo recuperato interamente fra Toriano e Montebello. Ecco, Saiano ha sempre avuto del Sangiovese di qualità, perché ricordo che c'è stato un produttore tanti anni fa che era molto valorizzato da Bolognesi, da Gianfranco Bolognesi, che era appunto Sangiovese che veniva da Saiano, ma forse non è un così. È un Saiano probabilmente più dalle tue zone. Dalle tue zone. Ma io voglio continuare a parlare appunto di Sant'Arcangelo, prima poi di passare a Torriana, dopo andremo a Torriana, che dove c'è appunto il ristorante di Fausto Fratti, l'osteria del Povero Diavolo. Già questo nome secondo me deve far pensare a un qualcosa di molto particolare, ma magari io non ricordo poi i versi di Baldini che sono su questa porta quando si entra in questo ristorante. Comunque secondo me varrebbe la pena poi di cantarli. Ma a Sant'Arcangelo, ecco, Sant'Arcangelo c'è anche una cosa molto particolare. particolare, c'è un'antica stamperia di marchi che poi sentiremo nel proseguo del viaggio, perché qui c'è una tradizione molto molto romagnola che è rimasta di queste stampe. Stamperia più vecchia di teli e tessuti che abbiamo in Italia, cioè la prima macchina da stampa, poi Marchi credo che saprà sicuramente raccontarla meglio di me. Bene, allora siamo arrivati a Sant'Arcangelo, ora scendiamo un momento, ci fermiamo, ripartiremo fra poco, linea alla regia, e quindi fra poco ci metteremo in moto. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Romagna mia, Romagna fiore, tu sei la stella, sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella. E non si poteva non ascoltare Romagna mia. Stiamo facendo un viaggio in una terra che addirittura è voluta diventare Romagna, perché alcuni comuni di questo territorio hanno votato un referendum di far parte della Romagna, quindi non potevo. E poi come romagnolo assolutamente per me rimane un inno che ogni tanto mi dà così anche qualche emozione. Ma eravamo a Sant'Arcangelo, allora ci siamo fermati, abbiamo fatto un'ulteriore fermata, perché la Romagna è fatta anche di personaggi molto particolari, diciamo un paese non dico di matti, ma matti nel senso buono, nel senso positivo, quindi c'è gente molto molto estrosa. E allora io voglio chiedere a Fausto, che una volta mi ha fatto assaggiare una cosa straordinaria nel suo ristorante, ed era un vino molto particolare, un liquore molto particolare speziato, creato da un personaggio geniale. Personaggio unico, direi, di una grande cultura, fra l'altro. Non c'entra niente, perché è proprietario di un bowling, quindi nella vita fa tutt'altra cosa. È uno speziale incredibile, conoscitore di spezie aromatiche e tutto il resto, e ha deciso di fare dei vermouth, quindi mettendo in infusione spezie nel vino, utilizzando dei vini di grande qualità, e sta facendo dei prodotti incredibili. Per tornare un attimo a Sant'Arcangelo, di fianco alla Sangiovesa, qualcuno ha pensato bene di aprirgli una vermuteria, quindi a Sant'Arcangelo, parentesi, c'è la possibilità di sentire tutte le sue creazioni, se non tutte quelle che lui sta facendo per la Sangiovesa. E quindi, come si chiama questa persona? Diciamo solo il nome di battesimo. Così No, il nome di battesimo non lo diciamo, perché lui ama farsi chiamare con un altro nome. Ecco, qual è il nome? È Baldo. Chiedete di Baldo e probabilmente lo troverete. Ma a Sant'Arcangelo siamo ancora fermi, perché ho parlato prima dell'antica stamperia Marchi di Sant'Arcangelo, appunto, e abbiamo con noi Alfonso Marchi. Buongiorno Alfonso. Buongiorno a voi tutti. Senta, ci vuole raccontare un po' la storia, la tradizione di queste tovaglie romagnole, che ogni buon romagnolo quando se ne va dalla Romagna se ne porta qualcuna a casa. Io ne ho due con i disegni di Tonino Guerra, per esempio, che tengo ben volentieri. Ecco, ci racconta questa storia, appunto, e come sono fatte, anche qual è la tecnica? La bottega è una bottega piantata sicuramente con tanto di registrazioni e permessi del 1633. Gode oggi di una, pur essendo una bottega piccola, gode di una storia importante. Perché? Perché c'è il mangano. Il mangano è una macchina con una ruota calcatoria di 5 metri che lavora ancora tutti i giorni dal 1600. Quindi le tele vengono stirate, per dire preparate, ammorbidite, queste nostre tele di canapa tessute dalle donne romagnole dell'Ottocento, che purtroppo oggi quel lavoro non si fa più, ma ancora recuperiamo questi tessuti antichi che dobbiamo stampare. Quindi le tele passano al mangano, prendono una stiratura, una follatura particolare che rende il tessuto liscio e perfetto, che poi viene decorato con stampi di legno intrisi di colore antico fatto con la ruggine del ferro. Queste tele hanno veramente un sapore antico e originale del passato. Ecco Marchi, qual è il disegno, quello diciamo che ricorda proprio la Romagna? erano i disegni che soprattutto venivano utilizzati per le coperte dei buoi, cioè per coprire i buoi per le feste importanti. Questi drappi riportavano dei disegni che solitamente erano disegni con decorazioni delle frutti di campo, soprattutto la spiga di grano, il grappolo dell'uva, quindi pane e vino, addobbato con nappe sempre stampate che ricordavano gli arazzi delle chiese, quindi c'era il sacro riportato su queste tele. Il Sant'Antonio, per esempio, un'iconografia ricorrente, perché Sant'Antonio abate, protettore degli animali, veniva sempre posizionato sulla groppa di buoi per proteggere sia gli animali, sia la famiglia, sia tutto quello che era il lavoro dei campi, insomma. E quindi i motivi, la bottega di Sant'Arcangelo ha 2000 stampi. Dal 1600 ad oggi ha raccolto e ha salvato 2000 legni che racchiudono tutto quello che è la decorazione e l'arte decorativa della Romagna. Una volta c'era una stamperia ogni piccolo centro abitato, dal mare alla montagna. Oggi sono poche unità di queste botteghe, però diciamo che ognuno nella sua zona, nel suo paese, nella sua città, da un prodotto di qualità, perché ovviamente come le botteghe di una volta, ognuno ha comunque sempre le sue cose, i suoi segreti, i suoi disegni, perché ogni commessa fatta nel passato ha arricchito la bottega di cose nuove, di invenzioni, insomma. Certo. Senta Marchi, viene ancora apprezzata, cioè la gente apprezza ancora, vede che c'è dietro, non è diciamo una tovaglia come le altre, ma non solo c'è la storia, ma c'è anche la bravura dell'artigiano, quindi le mani dell'artigiano. Beh, questo è sicuramente importante. Io dico sempre ai miei figli: se amate molto il vostro lavoro, fate delle cose eccezionali. E perché? Perché è così, infatti è importante dare sempre il meglio, perché poi possa essere apprezzato nella giusta modo. Certo. Insomma. E ogni pezzo è un pezzo a sé, quindi stampare a mano con i legni vuol dire ripetere quotidianamente le stesse cose per ottenere un risultato che è sempre unico. È vero, bisogna difenderla questa tradizione, questa storia. Io la ringrazio Marchi, grazie di essere intervenuto, e invito i nostri radioascoltatori, quelli che stanno seguendo questo viaggio, se andate a Sant'Arcangelo andate a visitare questa bottega, perché è qualcosa di unico, veramente si respira la storia e la tradizione della Romagna. Ma ora abbiamo detto partiamo, arriviamo a Torriana e arriviamo all'Osteria del Povero Diavolo. Cosa c'è scritto sulla porta di questo locale che si chiama Osteria, poi in realtà dentro è un proprio vero ristorante, ma insomma tu hai voluto mantenere questo nome. Innanzitutto mi spieghi perché questo nome? Parlando d'arte, ha lavorato un altro tuo conoscente e amico, perché quello scritto è su una ceramica e di stampo e stile antico, Giovanni Rubinati, sì. Dove c'è scritto da Baldini, che non è da confondere con Raffaello Baldini, ma è uno scrittore degli anni 30 che scrisse Italia di Bell'incontro, dove io, quando lavoravo in comune, avevo accesso, grazie a Piero Meldini, alla biblioteca, ho trovato questo testo. E dove Baldini parlava dei paesi dell'Italia degli anni 30, descrivendoli, e descriveva anche Scorticata, perché allora in dialetto usciameva Scurgheda, in dialetto si chiamava Scorticata. Fu il duce nel 38 a cambiarne il nome. Da Scorticata a Toriana. Che oggi è Poggio Toriana, fra l'altro. Abbiamo ricambiato ma come nome. Ma il duce cambia nome? Perché dalla delibera, quella appesa in un posto meno nobile, però altrettanto di buon gusto, nell'antibagno del Povero Diavolo, c'è la copia della delibera originale dove si scrive che ai cittadini non piacesse poi così tanto il nome di Scorticata, quindi il duce ne cambiò il nome. Ho capito, ma Scorticata tra l'altro è diventata una festa. Scorticata è diventata una festa che facciamo tutti gli anni. È già passata a fine luglio, la collina dei piaceri. Peccato che sia passata, ma sicuramente tornerà il prossimo anno. Quindi segnatevi anche questo nel taccuino. Ora passo la linea alla regia, torneremo col racconto. Siamo a Torriana e ora parleremo appunto di Torriana, parleremo della cucina di Torriana, parleremo del ristorante Povero Diavolo. Linea alla regia, torneremo fra poco. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata. Oggi alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Imprenditori, manager, banchieri, docenti universitari, personalità del settore pubblico e di quello privato. Negli incontri di Gianfranco Fabi, ogni domenica alle 22, i protagonisti della società raccontano la loro vita, le loro esperienze, i loro valori. Sono Gianfranco Fabi e ogni domenica condurrò un confronto aperto, sincero e costruttivo per andare oltre la cronaca quotidiana, per scoprire i segreti, gli interessi, le ambizioni delle persone che guidano piccole e grandi imprese, che hanno grandi progetti e quindi grandi responsabilità. Incontri di Gianfranco Fabi, domenica alle 22 su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Siamo fermi a appunto a Torriana e ora ho chiesto al nostro amico, al nostro Virgilio, di spiegarci perché si chiama Osteria del Povero Diavolo. Beh, Osteria del Povero Diavolo quest'anno fra l'altro compie 25 anni, perché l'abbiamo aperta nel 1990 ed era stata chiusa nella metà degli anni 70. È aperta nel 1915, quindi questa insegna che tanto piacque al Baldini ha la bellezza di 100 anni e si chiama in questo modo perché chi l'aprì, un signore di nome Briga, soprannominato Briga, era un poveretto, un disgraziato, quindi si autodefiniva un povero diavolo. Aveva 7 figli e poco da mettere nel piatto tutti i giorni, per cui mettendo sti insegna Osteria del Povero Diavolo, ho detto, la speranza è quella che qualcuno entri a portare qualcosa, quindi le origini sono queste. Ecco, io voglio tornare a quella scritta appunto. Saremo per caso giunti nel paese dove si può dire pane al pane e vino al vino, no? Questa insegna risponde al vero, in quanto basta allungare il collo dentro per rendersi conto che non è che un ricetto di poveri diavoli pieni di cantoni d'ombra per i vergognosi. Bene, mi ha recitato a memoria con grande sforzo, non ha letto, posso garantire. No, anche perché probabilmente chi la conosce non è proprio così, ma è vicino. È vicino, vabbè, è vicino. Magari potrebbe essere il direttore di una biblioteca che magari avrebbe qualcosa da dire, un certo Meldini probabilmente. Probabilmente sì. Ma ecco. L'Osteria del Povero Diavolo, che è diventato un po', questo lo dico io perché diciamo che sennò non lo racconterebbe Fausto, è diventato un po' un punto di riferimento importante per chi ama mangiare, chi mi ama mangiare a un certo livello, perché diciamo che si sono susseguiti in questa storia di questo locale che io conosco fin dalle origini. Si è partiti da un piatto di cappelletti che è diventato molto famoso della Loredana, piano piano si è passato attraverso a una serie di chef e uno addirittura poi è ora Pennabilli e poi magari lo citeremo anche, ma soprattutto l'ultimo arrivato, non l'ultimo in ordine di valore, che ora ha l'Osteria del Povero Diavolo, è un personaggio molto, molto particolare di cui ci vuoi parlare, perché sicuramente è un personaggio che ha una sua cucina, un suo modo di fare completamente diverso dal passato. Sì, raccontare Giorgio, andremo per grandi linee, perché come dici te è un personaggio che avrebbe bisogno di un approfondimento di ore, se non più, insomma. È un ragazzo che arriva come tutti i ragazzi della nostra zona dalla Gavetta. Lui è nato San Mauro Pascoli, no? Quindi a 15 km esattamente da dove ha sede il Povero Diavolo, ha fatto l'alberghiero Riccione, dopodiché 2 anni di apprendistato in quello che allora, e anche qui tu conosci benissimo, il ristorante più importante di Rimini, oggi non c'è più. L'Acero Rosso. Bravo, l'Acero Rosso. Di lì grandissimo salto e grande esperienza da quello che è considerato, non solo da me, ma credo anche da te e da tutti quelli che ne masticano di cucina, forse il più grande cuoco italiano, o sicuramente uno dei più grandi italiani e non solo, che è Massimiliano Laimo. Quindi io, avendo bisogno allora di trovare un qualcuno in cucina, chiedendo appunto a Massimiliano, e la faccio breve, eravamo San Sebastian in occasione delle Méor della gastronomia, dicendogli: ma sto ragazzo secondo te è in grado di gestire una cucina? Mi diede, mi ricordo, una pacca sulla spalla, e per guardarlo, siccome Massimiliano è alto quasi 2 metri, io non è che sono piccolissimo, però ho dovuto guardare verso l'alto e mi ha detto: guarda, questo è un predestinato. Ecco, e arriviamo a questo punto, perché questo personaggio, questo Giorgio, Pier Giorgio Parini, ha un po' rivoluzionato anche certi concetti di cucina, perché fa una cucina sorpresa. Cioè uno, diciamo, se non vuole mangiare la cucina sorpresa può anche mangiare altro, ma se uno, diciamo, si lascia andare, lui inventa giorno per giorno, cambia giorno per giorno i piatti, quindi con la sua creatività, e questo è uno sforzo davvero molto ma molto importante e difficile. Però devo dire che oltre Pier Giorgio Parini, appunto, e la sua cucina, Fausto conosce tutta una serie di fornitori che vale la pena un po' di andare a scoprire. Ad esempio c'è un produttore di formaggi molto particolare, ci racconti un po' cosa produce questo formaggio, dove tu solitamente vai ogni settimana. Sto sghignazzando, perché a Davide, avendo di recente mangiato un sabato sera lì, fermatosi poi a dormire perché il Povero Diavolo, non so se posso dirlo, certo, anche 4 stanze per dare ospitalità, quando lui viene in Romagna è consuetudine che ci si faccia un giro assieme alla scoperta dei prodotti e delle ultime novità. A sto giro ho pensato bene di portarlo in una casa, che non è nient'altro che una casa, non un caseificio, una casa di una signora che fa qualche formaggio al giorno e fa una ricotta al giorno. E lui, vedendo sta ricotta, non ha praticamente tenuto, ha detto: ma questa me la voglio portare via. Ha detto: ma come la mangi? 3 ore dopo mi ha chiamato e mi ha detto: sai dove sono? Sono sulla piazzola dell'autostrada a mangiarmi la ricotta. Perché... È vero, ma basta, è a Torricella, è un paesino dopo Nuova Feltre, prima di arrivare a Pennabilli. È una signora che il marito ha un'azienda agricola con qualche bestia, sia la mucca e la pecora. Quindi fa un misto eccezionale. È una cosa che noi utilizziamo i suoi formaggi anche per l'infossamento, no? Perché ci fa una decina di formaggi all'anno, sono quelli che mettiamo poi nelle antiche fosse malatestiane di Sogliano. Bene, che poi vedremo, faremo tappa anche a Sogliano, ma ora, visto che ci stiamo avvicinando, visto che abbiamo citato un paio di volte Pennabilli, io ora mi voglio collegare con Rita Ronconi. Buongiorno Rita. Buongiorno a voi. Rita, un saluto a tutti. Ciao, Rita è stata una grande collaboratrice di Tonino Guerra, per cui arrivando Pennabilli e Tonino Guerra, vero Rita? Sì, è vero. A Pennabilli Tonino ha creato un mondo con tutte le sue ideazioni, che sono tante, dall'orto dei frutti dimenticati alla strada delle meridiane, al santuario dei pensieri. Insomma, vale la pena andare a visitare questo luogo, perché Tonino ha lasciato molto. Ecco, ci racconti un po'. L'orto dei frutti dimenticati è una raccolta di piante, di frutti che altrimenti non si sarebbero trovati più. Sì, vorrei intanto dire anche chi è Tonino. oppure non so, tutti lo conoscono, ma qualcuno, Tonino è un grande poeta che si è dedicato alla pittura, alla scultura, all'ideazione artistica di mostre, parchi, fontane, e ha collaborato con molti artisti, suggerendo per la nostra valle luoghi poetici. Uno di questi appunto è l'Orto dei Frutti Dimenticati. Se volete vi leggo così quello che ha scritto. Va bene, va bene. Allora Tonino dice: ho pensato che fosse necessario un museo dei sapori per non dimenticare il gusto di quelle piante che stavano addosso alle vecchie case contadine e che oggi sono scomparse, come il biricoccolo, l'azzeruolo. L'Orto dei Frutti Dimenticati è un piccolo museo dei sapori per farsi toccare il passato. Ti interrompo perché mi viene in mente una cosa. Dimmi. Che questo doveva essere l'Expo, o l'Expo che dir si voglia. Cioè, ecco, l'Expo doveva prendere spunto da questo, diciamo, da questo Orto dei Frutti Dimenticati di Tonino Guerra. Secondo me sarebbe stata veramente un'ispirazione incredibile. Ti lascio andare avanti. Ah, niente, sono d'accordo con te, sono d'accordo, perché diciamo, l'orto nella mente di Tonino era quel ricordo che aveva delle case contadine. Vi racconto un aneddoto. Tutti facevano la processione di giorno in giorno, andarlo a trovare e chiedergli dei consigli a Tonino, no? Addirittura gente di Forlì è andata per chiedergli un parere per un giardino, per una casa per anziani, e Tonino gli disse: ma perché fare un giardino all'italiana? Fate un orto, così queste persone di giorno in giorno vedono e ritornano a quello che era stato, insomma, la loro gioventù, il fatto della natura, il fatto che cresca un pomodoro, un'insalata. Questo era Tonino. Ma infatti io ricordo che lui lanciò proprio questa idea che ogni casa della Valle del Maricchia dovesse avere un orto, e anche qui torniamo all'Expo, perché tutto sommato era un'altra idea molto, molto interessante, che sarebbe stata forse molto, sarebbe stata possibile e avrebbe dato risultati migliori in termini, se vogliamo, futuribili, in termini di educazione, appunto di un'educazione agroalimentare alla gente. Ma voglio tornare un secondo a Penna Billi. Sì. Oltre l'Orto dei Frutti Dimenticati io ricordo il lavatoio dove, sì, dove ci sono, sì, c'erano, sì, delle scritte, una scritta per ogni mese, uno slogan, chiamiamolo così, per ogni mese, se ben ricordo. Esatto, esatto, proprio all'interno dell'orto sotto c'è un antico lavatoio dove Tonino ha scritto per ogni mese una frase e ha fatto realizzare delle targhe in ceramica alla Mucchi, che è un artista di Faenza. Per dire, a gennaio c'è scritto: coi rumori che lasciano impronte sulla neve, oppure che so, aprile con tutta la fantasia che ha sonno, agosto col mare dentro agli occhi. Questo è il mondo poetico di Tonino. Ecco, bellissimo. Quindi io dico, signori, proseguite, andate a Penna Billi, dove si vede che la genialità, la poesia di un personaggio ha trasformato un borgo che altrimenti forse pochi sarebbero andati a visitare in un borgo invece che è diventato un posto turistico, quindi dal niente. Io credo che in molti casi ci sono dei paesi, delle città che spendono miliardi nel fare delle operazioni per attirare turismo e manco ci riescono. Qui c'era veramente il fatto della genialità. Non so se concordi, Rita. Concordo, sì, infatti su Penna Billi c'è l'associazione di Tonino Guerra e a Sant'Arcangeli invece c'è il museo dedicato nel mondo di Tonino Guerra, e l'associazione in quest'ultimo periodo ha creato un progetto per realizzare questo museo letterario sulle opere e diffuse nel territorio, che sono tantissime, perché non c'è solo Pennabilli, c'è Torre di Bascio con i tappeti di Bascio, c'è tutto l'itinerario delle fontane, che sono bene 11, che partono da Cervia, Riccione, Sant'Arcangelo, Poggio Berni, ce n'è una a Toriana, a proposito di Toriana, che prima parlavate di Toriana, certo. Poi Sant'Agata Feltria, Sogliano sul Rubicone. Ecco. Rita, grazie, sì. Grazie di questo racconto, sì. E penso che molti saranno incuriositi di poter fare questo itinerario. Però voglio ricordare solo una cosa: Pennabilli, se volete mangiare, c'è un ristorante che si chiama Il Piastrino. Riccardo Agostini come chef, quindi un altro ristorante importante di questa vallata. Linea alla regia, torneremo fra poco e continueremo il viaggio. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Riprendiamo il viaggio. Io volevo, prima di riprendere il viaggio, però di andare a Sogliano al Rubicone, volevo ricordare che a Toriano c'è una bellissima vista da vedere. Poi c'è un Montebello, che è un borgo medievale, e che c'è una storia su questa azzurrina. Sì, si narra, si dice che questa bimba, sparita nel nulla all'interno di un pozzo, da piccolissima, 5 anni, bionda, anzi con i capelli bianchi, albina e gli occhi azzurri, ogni 5 anni, ogni lustro, faccia ritorno nel castello. Ah, quindi ci sono anche bellissime storie, esatto. Appunto di... E poi c'è questa vista da Toriana, fantastica, splendida, si vede tutto. Da Ravenna a Cattolica, praticamente. E mi sembra che anche qui Tonino Guerra avesse fatto costruire un qualcosa, dove c'è quella, diciamo, quella bella terrazza fontana che ti diceva la Ricca, l'albero dell'acqua. Ora andiamo, abbiamo detto, a Sogliano al Rubicone, dove incontriamo Gianfranco Rossini. Buongiorno, dottor Rossini. Buongiorno a lei, Paolini. Come vanno i formaggi di Fossa, Rossini? Formaggi di Fossa vanno abbastanza bene, hanno sentito un po' la crisi, però noi continuiamo comunque come da sempre il nostro tipo di lavorazione, cioè prendiamo formaggi, li prepariamo, li stagioniamo e poi li mettiamo in commercio. Ecco, ci racconti un po' questo, queste fosse, cosa hanno di magico a Sogliano? Perché questo formaggio messo in queste fosse esce con dei profumi, dei sapori che sono straordinari? Beh, la cosa nasce da molto lontano, cioè quando si aveva la necessità di conservare le derrate alimentari, i formaggi in particolare, durante il periodo dell'anno, specialmente nei periodi meno favorevoli, che erano quelli estivi, per il mantenimento del formaggio. Perciò fin dal 1400 da noi si sono utilizzate queste fosse, che non sono altro che cavità sotterranee sotto i fabbricati delle nostre abitazioni, dove venivano ammassati questi formaggi racchiusi in sacchi di tela dentro una fossa preparata per il lavoro. In questa fossa in pratica i formaggi si mantengono e si sanificano, però c'è anche la peculiarità che acquisiscono sapori e cambiano tutto il loro aspetto, cambiano gli aromi, l'aspetto fisico, i sapori e tutto. Ed è una fermentazione naturale che dura 3 mesi all'interno di queste fosse e poi danno il risultato finale nel tardo autunno. Diciamo che noi abbiamo avuto un boom all'inizio degli anni 2000, dove magari c'era questa novità, era questa riscoperta di questo prodotto e le fosse sono state utilizzate in maniera anche anomala, nel senso che si sono infossate più volte e si sono fatte produzioni massicce. Oggi diciamo che la cosa è rientrata nella normalità delle cose, si cerca di stagionare i formaggi del territorio, si è ritornato a rifare una stagionatura più controllata e più indirizzata alla stagionalità, Si è nel frattempo ottenuta la DOP, dove prevede che l'infossatura sia fatta solo con prodotti locali del territorio, e del territorio parliamo, per territorio parliamo Romagna e Marche. L'unica difficoltà che abbiamo in questo momento è la carenza di latte, specialmente di latte ovino, sul nostro territorio, perché le aziende gradualmente tendono a sparire o chiudere per la crisi e per tanti altri motivi, e abbiamo una diminuzione delle risorse primarie l'infossatura. Senta Rossini, se ben ricordo l'infossamento veniva a novembre e diciamo lo sfossamento ad agosto, o viceversa? L'infossamento in agosto, lo sfossamento a novembre, certo. Infatti adesso noi ci stiamo preparando per l'infossatura tradizionale. Sti giorni stiamo già raccogliendo i formaggi del territorio, e dalla fine del mese di luglio fino all'inizio di settembre c'è la pratica dell'infossatura. Bene, la ringrazio Gianfranco Rossini, fossa di formaggio storica a Sogliano Rubicone, è un altro posto che vale la pena di essere visitato per questa specialità straordinaria, assieme a Talamello che è un altro borgo dove nel tempo anche lì c'è la tradizione del formaggio di fossa. Ma prima di arrivare a parlare di vino, caro Fausto, io vorrei parlare di un luogo che mi ha sempre incantato, che mi sembra proprio fuori dal mondo, che è Petrella Guidi. Un borgo dimenticato. Dove sembra che il tempo si sia fermato. Bravo, esatto. Esiste ancora il maschio del castello intatto, pochi abitanti che lo vivono per quello che è, dove le stradine sono tutte ciottolate e ricoperte d'erba. Quindi un posto direi da favola, dove qualcuno ha pensato bene di farci anche magari qualche business, no? Qualche artista ha piantato le tende attorno a Petrella Guidi, fissandoli la propria abitazione, il proprio studio. Mi viene in mente ad un grande pittore, Sagliola, ad esempio, che vive se non tutto l'anno ma per lunghissimi periodi dell'anno a Petrella Guidi, dove lì ha trovato la pace e l'ispirazione. Bene, allora abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di vino, anche perché diciamoci la verità, la valle del Marecchia e del Conca non è che ha avuto sempre grandi tradizioni vinicole, anzi direi, però c'è stato un imprenditore molto coraggioso, un pioniere diciamo per il mondo del vino, che è Adriano Galli. Buongiorno Galli. Buongiorno. Con la sua azienda che si chiama Volturio ed è nei pressi di Nova Feltria. Chi è che manda avanti questa azienda? Dunque, allora, innanzitutto il nome è Volturio, sì. Siamo a Macerata Feltria, proprio al limite del confine che taglia in parte il Monte, hanno tagliato il Monte Feltro dalla parte marchigiana, la prima parte marchigiana e quella parte romagnola. Dunque, l'azienda che la manda avanti, l'azienda l'ho fondata io insieme con mia moglie negli anni 2000, la gestisco io con grande fatica e impiego dal 2010, sollecitato dalla direzione del di un piccolo carcere mandamentale che c'era qui, dico c'era perché l'hanno chiuso a dicembre dello scorso anno, dove c'erano dei detenuti, giovani detenuti per piccole pene o fine pena a sicurezza attenuata, cioè potevano uscire a lavorare durante il giorno purché rientrassero la sera. E ho impiegato fin dal 2010 un po' di manodopera per il primo anno per la fase di vendemmia e poi successivamente anche in altre fasi di lavorazione. Oggi il carcere è chiuso, l'ultimo detenuto che ha scontato, finito di scontare la sua pena con 2 mesi di domiciliari con garanzia mia diciamo del lavoro della casa, è assunto in azienda e lavora a tempo determinato con contratto annuale presso l'azienda. Passiamo al vino, perché la cosa più importante, lei ha già ottenuto dei risultati molto lusinghieri con la qualità del suo vino e in particolare il Sangiovese. Sì, allora qui naturalmente non essendoci dei riferimenti precisi, c'era così una vaga idea di vini fatti con vincitori anche di medaglie d'oro all'esposizione di Torino nei primi anni del Novecento, però non c'erano come documenti precisi che dicessero quali tipi di vitigni. Ho puntato sul Sangiovese che, come dire, è il vitigno dell'Italia centrale, e quindi il mio progetto era volto a fare un buon Sangiovese in altura, perché noi siamo, le mie vigne partono da 450 metri e sono fino a 550 metri. Il Sangiovese, produco un Sangiovese, il nome dell'azienda, il nome a questo vino, si chiama Valturio, Sangiovese in purezza, la prima annata la 2005, l'ultima in commercio la 2010, con ottimi risultati di critica, sembra che sia... Cioè, è chiaro, i propri figli sono sempre i più belli e i più buoni, per me è un grande vino, ma pare che anche la critica e il mercato, insomma, lo apprezzi molto. Ecco, io voglio capire dove è scattata questa molla, appunto una zona dove non c'è una tradizione vinicola. Cosa l'ha spinta? Mia moglie è di Massara da Feltri, ha una casa sulla collina di fronte a dove io ho piantato le vigne. Quando venivo ogni volta per il fine settimana da Rimini o durante le vacanze, dicevo: ma che posto meraviglioso, secondo me deve essere un posto fantastico per piantare delle vigne. Poi documentazione orale, documentazione scritta su queste cose del passato, diciamo dal 700 fino ai primi anni del 900, c'era questa tradizione di buoni prodotti, anche se naturalmente erano prodotti diversi da quelli di oggi. La mia passione per il vino, che significava frequentare le cantine, visitare le aziende, partecipare alle varie manifestazioni, e nel momento opportuno, quando le condizioni, come dire, economiche me l'hanno consentito, ho fatto carta bianca, un business plan, e ho acquistato i terreni, ho messo mano al progetto e di punto in bianco ho messo in piedi quasi 11 ettari di vigneti e quasi 3 di uliveto, insomma, con... Diciamo ci siamo un pochino anche allargati rispetto al progetto originario. Bene, allora diciamo buona continuazione, Galli, continui così a ottenere sempre grandi risultati, anche perché appunto questa azienda ha illuminato un po' questo territorio anche col vino, ed era la cosa che mancava. La ringrazio, grazie a presto. Grazie. Bene, io devo dire che a Nova Feltre, quindi vicino a Macerata Feltre, c'è il Museo Storico Minerario, quindi un altro punto sicuramente da andare a visitare. Quindi ne abbiamo citati tanti in questo viaggio di luoghi e di siti che vale la pena di andare a visitare. Ce ne siamo dimenticati qualcuno, Fausto? Beh, di posti da visitare, secondo me, sì, abbiamo parlato ad esempio prima di Verucchio San Leo. È anche San Leo, ma prima vorrei arrivare a Verucchio. Verucchio è... Ci sono tracce importanti e scoperte villanoviane, c'è un museo villanoviano fra i più importanti conosciuti. Poi è la terra dei Malatesta, certo, che dà origine un po' a tutto quello che è stato sta terra di confine, Montefeltro e Malatesta. San Leo non ha bisogno di presentazione. La Rocca con, no? Cagliostro, quindi la storia di Cagliostro. Ci siamo dimenticati di qualche luogo di cibo o di prodotto particolare? Prodotto particolare, volendo, si potrebbe andare a visitare qualche piccolo produttore di mora romagnola in Valmarecchia, a Secchiano, Marecchia esattamente, la strada che da Toriana a Sant'Arcangelo porta verso Nova Feltre. Arrivati a Secchiano, a destra si incoccia prima in un personaggio stranissimo che produce dei caprini splendidi, Igilium, Paolo Benaglia, subito sotto Zavatta Giorgio, che ha... produttore di mora romagnola, esatto, allevatore di mora romagnola, che è una razza che stava per entrare in estinzione ed è stata salvata. Bene. Il merito Zavoli, diciamo Valconca, bisogna citare anche lui, insomma. Bene. Allora siamo arrivati in fondo, scendiamo dalla macchina, avete preso appunti, cari radioascoltatori, e non ci resta che salutarvi e augurarvi una buona continuazione per questa domenica. Un caro saluto da Davide Paolini.